sentire il profumo di questa vita mia. Sono medici e dottori, io ci scrivo una bella poesia. Ma non c'è poesia nella sala d'attesa, zero cortesia nella sala d'attesa. Solo persone uguali a mille altre persone, e un pazzo col megafono in mano che urla. Nessuno pulirà il mio sangue amaro, nessuno pulirà il mio sangue amaro. Io credo sia la mia ultima possibilità.